Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:07 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24 per intervenire in diretta in questa che è la penultima puntata di Viva Voce. Forse, come avrete sentito anche nei promo che passano da lunedì, ci saranno importanti novità nel palinsesto di Radio 24, ma di questo ne parleremo più approfonditamente domattina. 800 24 00 24, appunto, per intervenire. Evidentemente, per andare in carcere non basta essere condannati all'ergastolo in Italia in via definitiva per 4 omicidi. 6 giugno 1978, il maresciallo della polizia penitenziaria Antonio Santoro. 16 febbraio 79, il gioielliere Pierluigi Torreggiani e il macellaio Lino Sabbadin. 19 aprile 79, l'agente della Digos Andrea Campagna. Cesare Battisti, 52 anni, condannato per questi 4 omicidi all'ergastolo, esponente dei proletari armati per il comunismo, per quei delitti probabilmente non pagherà mai più. Si era rifugiato nel 2007 in Brasile, scappando dalla Francia dopo una lunga latitanza anche oltre Alpe. Era stato arrestato, l'Italia ha chiesto l'estradizione, ma lo sapete, il Brasile ha deciso di no. Battisti non è un terrorista, è un rifugiato politico. Se torna in Italia rischia la persecuzione, e poi sarebbe stato condannato per il Brasile sulla base di accuse non fondate su prove certe. C'è anche qualcosa di più di cui parleremo. Insomma, Cesare Battisti per quei 4 ergastoli non pagherà. Lo ha deciso il ministro della giustizia brasiliano, Tarso Genro, scatenando un putiferio di polemiche politiche, reazioni diplomatiche, la convocazione dell'ambasciatore, il governo italiano infuriato, si può dire. Ne parliamo con Maurizio Campagna, che saluto. Buongiorno Campagna. Sì, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli spettatori. Il fratello di Andrea, l'ultimo delle 4 persone che ho citato ucciso. Andrea Campagna, agente di polizia, ucciso a Milano il 19 aprile del 1979. Saluto anche Rina Gagliardi, ex senatrice, giornalista. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. E saluto Giovanni Bianconi del Corriere della Sera, che proprio, tra l'altro, molto esperto di questi temi, e oggi ne scrive sul Corriere della Sera con anche un retroscena molto molto interessante di cui parleremo. Benvenuto Bianconi. Buongiorno. Alle 9:11 minuti, 800 24 00 24. Dunque non sarà estradato dal Brasile all'Italia Cesare Battisti, governo italiano offeso. Probabilmente già nelle prossime ore Cesare Battisti potrebbe essere liberato ed essere un uomo totalmente libero, in grado di poter andare dove gli pare, in quanto ha ottenuto lo status di rifugiato politico. Maurizio Campagna, come detto, è fratello di Andrea, ucciso a Milano il 19 aprile del 79. Campagna, per quel delitto Battisti è stato condannato come l'esecutore materiale. Sì, esatto, sia per mio fratello che per quanto riguarda il Antonio Santoro, che è stato ucciso a Udine. Non parterò dalla banale domanda come si sente oggi, gliela farò più avanti. Prima vorrei partire da quel 19 aprile del 79. Maurizio era suo fratello e è stato ucciso perché ci fu un video di 8 secondi passato su una telecamera della Rai. Ci vuole spiegare? Anche gli ascoltatori, se sono collegati a internet, magari lo possono vedere questo filmato. C'è ancora su YouTube, sì, per esatto, esempio. Su YouTube, se cercano come Andrea Campagna, questo filmato lo trovano. Quindi praticamente cosa è successo? Che mio fratello andò in zona Barona. Ecco, tenga presente che noi, la mia famiglia abitava nella zona Barona, quindi mio fratello comunque era conosciuto nella zona Barona. Che è un quartiere di Milano, diciamo. È un quartiere sì, popolare di Milano, abbastanza caldo negli anni che stiamo trattando, no? E niente, quindi mio fratello cosa ha fatto? Andò ad arrestare dei presunti terroristi, una telecamera di Rai 2 riprende mio fratello mentre arresta questi presunti terroristi, i quali poi vengono portati col cellulare in questura e vengono interrogati, e ovviamente queste persone diranno di aver subito delle violenze in questura. C'è questo flash di 8 secondi, l'immagine potete vederla, non so, ieri per esempio, quando hanno arrestato il boss della Camorra Giuseppe Setola, no? Avete visto le classiche immagini, lui portato con a fianco due poliziotti, carabinieri, due uomini delle forze dell'ordine che lo accompagnano a braccetto verso la macchina. In quegli istanti si vide una delle persone che accompagnava, una delle persone arrestate a braccetto era suo fratello, si vide il volto per pochi secondi. Questo bastò a condannarla a morte. Quindi proprio, è stata proprio una condanna, nel senso che ovviamente con il fatto che avesse torturato, cioè il fatto che la polizia, cioè erano uscite queste notizie, il fatto che la polizia avesse torturato queste persone, è bastato a far sì che i PAC decretassero la pena di morte per mio fratello. Ovviamente era un bersaglio abbastanza facile, nel senso che era in zona, tutti quanti lo conoscevano, il posto dove vengono arrestate queste persone era anche vicino all'abitazione della ragazza di mio fratello di mio fratello, e quindi diciamo è stata una cosa abbastanza semplice da parte dei PAC, no? Quindi è stato subito individuato Sì, perché essere condannati a morte per un flash di 8 secondi di questo tipo, uno mai se lo sarebbe aspettato, forse neanche in quegli anni, neanche in quel momento, no? Tra l'altro suo fratello arrestò delle persone che conosceva, nel senso che appunto lei dice una famiglia cresciuta nel quartiere, un quartiere caldo, quindi certo, magari c'era anche la difficoltà nel dover compiere il proprio lavoro nei confronti di persone che però avevano probabilmente commesso dei reati in quel momento. Certo. Beh, infatti diciamo quando abbiamo visto questo filmato in televisione, che tra l'altro è andato si è visto anche ieri proprio su Rai 2, ripassare appunto il filmato di mio fratello, no? Nelle scene mentre si intervistava, mentre si faceva questo passaggio su Cesare Battisti, noi insomma eravamo preoccupati, ecco, tenga presente che la mia famiglia, mio padre faceva la guardia notturna, mio fratello lavorava in polizia e in quegli anni, lo dico per le persone che sono in ascolto, che magari non hanno vissuto gli anni cosiddetti di piombo, praticamente ogni volta che si accendeva il telegiornale o la radio, o c'era un ferito, o c'era un gabizzato, c'era un morto, una strage, insomma era quasi all'ordine del giorno. Certo. In famiglia si parlava di questo e quindi la preoccupazione sicuramente era rivolta maggiormente a mio fratello, perché lui faceva il poliziotto, ma comunque anche mio padre come guardia notturna, e quindi si parlava spesso, no, di fare attenzione a queste cose, no? Suo fratello tra l'altro fu ucciso sotto la casa della fidanzata. Della fidanzata. Chi lo disse a lei, fratello minore rispetto a suo fratello minore? Io sono minore, mio fratello è nato nel 54, io sono del 61. Ci chiamò la sua ragazza, quindi subito dopo il fatto, erano intorno alle 13:40 circa, chiamò la ragazza dicendo: guarda che hanno ucciso Andrea sotto casa. E lì c'è crollato il mondo addosso, no? Quindi... Io so che sua madre è ancora vivente, è anziana, che ha detto di questa cosa? Di Cesare Battisti, che non verrà estradato, dice? Sì. No, non, come le dicevo, non l'abbiamo informata. Non gliel'avete detto? No. Perché? Perché non vogliamo assolutamente coinvolgere mia madre, cioè ne ha passate già tante, quindi preferiamo non coinvolgerla ancora su questo capitolo. Mia madre, diciamo, adesso vive serena. Ecco, adesso gliela faccio la domanda, insomma, per attualizzare. Battisti probabilmente sarà libero. Battisti è un rifugiato politico, secondo il ministro della giustizia brasiliano. Battisti, se viene in Italia, rischia la persecuzione politica. Io ho detto in apertura, c'è anche un qualcosa in più che adesso con Giovanni Bianconi tratteremo. Certo. Lei che crede, ecco, di tutto, guardi, questo? Guardi, io posso dire una cosa, anche ieri vedevo i telegiornali e tutte le aperture su Battisti, cioè si vedeva ex terrorista. C'è da dire una cosa, io almeno, e penso la maggior parte delle persone che ci ascolta, Cesare Battisti non è un ex terrorista. Per diventare ex terrorista ci sono dei passaggi, a mio avviso, che devono essere assolutamente fatti, e cioè, il primo, pagare tutto il conto con la giustizia. Quindi se ho ricevuto un anno, 5 anni, 10 anni in un ergastolo, va bene, la giustizia io per forza devo aver scontato e pagato soprattutto questo conto. Il secondo è dissociarmi dal terrorismo, E terzo, ma quello può essere anche può essere fatto o non fatto dalla persona, chiedere scusa alle persone che ha arrecato parecchio dolore e pentirsi di quello che ha fatto. Che io sappia, attualmente Battisti ancora queste tre cose non ne ha fatta una, quindi non ha fatto, ha fatto soltanto 2 anni di carcere in Italia, non si è dissociato assolutamente, e terzo non ha chiesto neanche perdono alle famiglie, almeno direttamente non l'ha mai chiesto, l'ha sempre fatto per televisione, lui dice che è estraneo a questi fatti. Chiamarlo ex terrorista mi sembra davvero eccessivo, lui a tutti gli effetti tuttora è ancora un terrorista. Giovanni Bianconi, oggi sul Corriere della Sera tu firmi un lungo articolo con un retroscena, anche un qualcosa di nuovo insomma che c'è sul Corriere della Sera rispetto agli altri giornali. Il titolo è questo: libero anche per una lettera di Cossiga. L'ex presidente Francesco Cossiga ha avuto un ruolo in questa vicenda, quale? Ha avuto il ruolo di rispondere a una richiesta della difesa di Cesare Battisti nella causa per ottenere l'asilo politico, nel senso che la richiesta era quella di scrivere una lettera nella quale lui metteva per iscritto e confermava cose che effettivamente aveva già detto in passato, e cioè che a suo giudizio i terroristi non erano criminali comuni ma erano criminali politici, perché compivano delle azioni spinte dalla, appunto, non per fare una rapina e prendersi i soldi e andarsi via godere da qualche parte, ma per un obiettivo politico, e quindi sapendo che questa lettera sarebbe stata utilizzata in quella causa, lui l'ha scritta e l'ha mandata agli avvocati difensori di Battisti, che poi l'hanno prodotta ed è riportata nella decisione del ministro brasiliano di concedere l'asilo politico. Cioè ha avuto un peso anche questo giudizio del presidente Cossiga sulla decisione. Anche perché poi lì c'è scritto che Cossiga è appunto l'ex ministro che aveva fatto le leggi d'emergenza, che peraltro vengono criticate nel provvedimento, perché si dice che le leggi d'emergenza varate in Italia durante il terrorismo hanno prodotto un vulnus nella giustizia italiana in qualche maniera, e quindi l'autorevolezza della lettera viene portata a sostegno della possibilità che appunto Battisti fosse un criminale politico e che quindi potesse avere l'asilo politico. Tra l'altro nella conversazione che ha avuto Cossiga dice: non dico che Battisti sia un perseguitato politico, ma che i suoi delitti siano politici. E poi aggiunge: ora che l'Italia pensi a una protesta diplomatica mi fa ridere, se fossi il ministro brasiliano davanti all'ambasciatore italiano che viene a chiedere conto della decisione lo prenderei a calci nel sedere. Cioè un Cossiga per nulla imbarazzato, tu gli hai fatto anche questa domanda riguardo a quello sì, che è successo. Un po' anche il suo ruolo che lui gioca spesso da qualche anno. Comunque che ci sia questa distinzione tra dire che quello che Battisti ha commesso dei delitti politici e dire che è un perseguitato politico, questo è vero, nel senso che Cossiga si limita a dire quello, dopodiché però sapeva benissimo che uso ne sarebbe stato fatto. Infatti io poi quando gliel'ho chiesto lui dice: sì, ma io non posso e rinnegare quello che ho detto, lo penso e lo continuo a dire a chiunque me lo chieda, diciamo. E prima di andare dalla senatrice Gagliardi, Maurizio Campagna, che effetto le fa questo aspetto? Lo conosceva, sapeva del ruolo dell'ex presidente Cossiga, le fa cambiare giudizio, le fa aggiungere qualcosa oppure no? Sì, l'ho sentito proprio prima dell'inizio della trasmissione. Le frasi che ha detto Cossiga sono incomprensibili a mio avviso e non hanno nulla di razionale. Tra l'altro sarei curioso di sapere se lui sta parlando a titolo personale su questa vicenda oppure a titolo istituzionale, e se a titolo istituzionale in che ambito? Questo vorrei sapere. Bella domanda. Bianconi, questo è stato chiarito? Insomma... Ma no, lui parla a titolo personale evidentemente, lui non rappresenta più nulla, rappresenta se stesso, che è stato però un Presidente della Repubblica e soprattutto il Ministro dell'Interno di quel periodo, poi è stato anche Presidente del Consiglio in anni in cui ancora il terrorismo era in attività, in piena attività direi, tra il 79 e l'80, quindi parla a titolo personale, è uno dei pochi che si sofferma su questi temi molto approfonditamente già da parecchi anni, però evidentemente nonostante parli a titolo personale, il suo peso e la sua rilevanza, soprattutto all'estero, sono rilevanti, insomma. Rina Gagliardi, si è parlato, i termini sono di sdegno, offesa, rammarico, sorpresa, incredulità, questi sono i termini che si leggono sui giornali oggi, sono termini esagerati secondo lei? Come vede la decisione del Brasile? Uno schiaffo all'Italia, qualcuno dice? Ma sì, certo, non è una decisione particolarmente condivisibile. Io posso cogliere l'occasione per esprimere tutta la mia solidarietà alla persona, al fratello di questo poliziotto ucciso. Ma vede, io, se mi consente, vorrei dire un'altra cosa. Suppongo che mi abbiate invitato a questo dibattito pensando che io rappresenti, in quanto persona di sinistra, una posizione diversa da quella più logica. Io voglio appunto invece dire che essere di sinistra e praticare l'uccisione, anche l'uccisione per fini politici, le considero due cose incompatibili. Come partito politico, ma anche personalmente, ho aderito da molto tempo, da molti anni, a una idea non violenta, radicalmente non violenta, della politica. Anche essere di destra, le posso dire, è incompatibile con l'uccisione? Fare politica? Non lo so, io intanto lo dico perché è bene che ciascuno parli per sé. Quindi io sono tra coloro che da sempre, anche in quegli anni, ha condannato senza alcun scrupolo, alcun dubbio il terrorismo e l'idea appunto che si conquista il potere attraverso l'uccisione di qualcuno e l'idea, insomma, appunto violenta della politica, non solo uccidere, non solo distruggere vite umane, ma anche conquistare con la violenza il potere ed esercitare il potere in termini. Quindi, come dire, sono accettato perché mi piace la vostra trasmissione, mi piace la discussione. Vorrei solo chiarire che rappresento, appunto, non rappresento certamente una posizione. No, ma infatti il suo pensiero lo conosciamo, insomma, minimamente avevo pensato di invitarla perché interpretasse un'idea diversa rispetto a quella che ci ha detto. La sua idea la conosco bene, però le chiedo anche per esempio, ci fu un appello per Cesare Battisti nel 2004 con 1500 firme. Oggi forse avrà letto già i giornali. Bernard Henri Lévy, una persona che io stimo e apprezzo per i libri che scrive, per quello che scrive. Oggi, leggendo Repubblica, lo apprezzo meno, quando dice: i brasiliani sono stati saggi, non che io sia per il terrorismo, non che io mi fa orrore l'uccisione, ma non c'erano dei dubbi che lui fosse colpevole, poi insomma sono passati 40 anni. Ecco, questi discorsi lei come li accoglie? Io male, lei? Vabbè, io li accolgo anch'io, detti così lei ha ragione. Diciamo che è chiaro che un conto sono le vicende appunto personali, quando penso a quella persona che ha perduto un fratello, a quella madre che ha perduto un figlio, i quali possono legittimamente dire qualunque cosa, no? E anzi, io ho apprezzato molto l'equilibrio con cui qui sono state dette delle cose. Tuttavia c'è una differenza, diciamo, che va fatta, perché se si confondono vicende personali con un problema complesso come la stagione degli anni di piombo e il modo di uscirne e il modo di chiuderla definitivamente, cosa che ancora mi pare non è stata realizzato, e anche il complesso problema della diplomazia, dei rapporti internazionali. Vede, la Francia, come lei sa, ha una tradizione a suo tempo espressa dalla dottrina Mitterrand, per cui in qualche modo si ha ritenuto di tutelare chiunque andasse in Francia a certe condizioni rispetto alle questioni della giustizia. Sì, la dottrina Mitterrand, cioè chi abbandonava la lotta armata aveva, diciamo, un rifugio, un asilo politico in Francia. Era cambiato il clima, però, per questo Battisti stava per essere estradato dalla Francia e per questo è fuggito in Brasile. Cambiano i regimi, cambiano le dottrine, ma come vede Io non credo che il presidente Mitterrand a suo tempo fosse corrivo o complice in qualche modo o approvasse in qualche modo il terrorismo o la lotta armata. È una questione di carattere diverso, anche appunto che ogni paese ha le sue culture e le sue posizioni. Suppongo che il Brasile, che è uscito da alcuni anni, ma insomma da una fase storica molto, molto complessa, da regimi autoritari, che sta cercando una strada di riscatto, abbia una legislazione in qualche modo che tiene conto un po' di questo passato, no? E suppongo che sia questa la ragione per cui Ha fatto questa decisione. Io vorrei, siccome ci sono tanti ascoltatori, devo andare un attimo in pubblicità, credo Bianconi ci debba anche lasciare. Giovanni, vorrei farti un'ultima domanda, poi ci sono un attimo di pubblicità, gli ascoltatori, Roberto da Genova, Luca da Treviso. Appunto, si è parlato molto di Francia, della dottrina Mitterrand, quello scudo protettivo di rifugiato politico a chi in passato abbandonava la lotta armata. Era cambiato il clima, Battisti era proprio in Francia, scrittore brillante, scrittore di noir, rischiava di essere estradato in Italia, per questo è fuggito in Brasile. Ora, dal Brasile, possiamo dire, dal Sud America in generale, c'è un rischio di uno spostamento dell'asse geografico di una dottrina? Ma intanto c'è già altri ex terroristi, il Brasile in passato non aveva estradato, quindi per motivi più o meno diversi, quindi no, terroristi oppure comunque militanti della sinistra estrema che erano stati condannati, per esempio Achille Lollo, ma per altri motivi, no? Perché lui era diventato nel frattempo cittadino brasiliano o altri ancora. Dico, non credo, il problema è che è difficile, che io credo che all'estero si comprenda come a 30-40 anni di distanza si vadano a ricercare persone che si sono ricostruite una vita, una famiglia, anche il caso Petrella in Francia, no? È vero che è stata abbandonata la dottrina Mitterrand, però Marina Petrella è rimasta, che è un'ergastolana, ex brigatista, sì, per motivi di salute, ma insomma è chiaro che dietro i motivi di salute c'è anche un imbarazzo francese. Lo stesso Battisti era stato estradato dalla Francia, però poi i controlli di polizia si erano allentati al punto tale che ha potuto lasciare il paese senza troppi problemi. Quindi c'è un imbarazzo all'estero, secondo me, per motivi interni di quei paesi lì, a riaprire vecchie ferite, anche tutta questa solidarietà francese. Battisti è molto più famoso in Francia che in Italia, insomma, prima che venisse arrestato in Francia, il suo nome in Italia era proprio in fondo alle liste se non avesse scritto dei libri, se non fosse diventato famoso, appunto, ripeto, più in Francia che in Italia. Gli stessi libri sono molto più di successo lì che qui, insomma. Ha detto adesso che scriverà, come prima cosa, se avrà la completa libertà, pubblicherà i due libri che ha scritto in carcere, perché in questi 3 anni in Brasile era in carcere in attesa di capire se estradarlo oppure no, come invece avviene. Grazie Giovanni Bianconi del Corriere della Sera. Prima degli ascoltatori, stiamo parlando del caso Battisti. Voglio ricordare Battisti condannato all'ergastolo in via definitiva per 4 omicidi. Gli voglio ricordare i nomi: maresciallo della Polizia Penitenziaria Antonio Santoro, il gioielliere Pierluigi Torregiani, il macellaio Lino Sabbadin, l'agente della Digos di Polizia Andrea Campagna. Siamo insieme a Maurizio Campagna, il fratello di Andrea, a Rina Gagliardi, senatrice, ex senatrice di Fondazione Comunista, e voglio salutare, ci ha raggiunto anche Alberto Torregiani, buongiorno. Buongiorno Torregiani. Figlio del gioielliere Pierluigi Torregiani, una storia che tra poco racconteremo, perché lui l'ha vissuta proprio in presa diretta, l'uccisione del padre, era lì. Roberto da Genova, buongiorno. Buongiorno. Volevo dire due cose. Per me lei, l'ho già seguito in altre trasmissioni che fa, compie un errore, perché vuole parlare di un caso generale che è stato il terrorismo e la guerra, e poi prende il caso particolare dei parenti, che è una cosa veramente triste. Però è un errore di proporzioni. Perché? Che guerra, scusi? Non si può negare che c'è stata la guerra. Lei lo dice, lei come sa, se ci segue uno degli ospiti che chiamiamo, spesso è anche un collega, Andrea Casalegno, figlio di Carlo Casalegno, ucciso appunto dalla vittima del terrorismo, nega in maniera totale e assoluta e rifiuta il concetto di dire che ci fosse una guerra, perché non c'erano, la guerra viene dichiarata da due parti. Qui lui dice, Casalegno, io le riporto il pensiero di chi magari è stato coinvolto e quindi ne sa più di me sicuramente, dice che la guerra si dichiara in due, invece ci fu una parte che dichiarò la guerra allo Stato non corrisposto, e quindi lui rifiuta il concetto di guerra. Lei comunque dice in realtà non si può negare questo. Dica, poi Roberto. Posso dire un'altra cosa? Sì. La polizia al tempo faceva delle torture, sono state riconosciute, sono stati condannati dei commissari anche a Genova, poi sono diventati parlamentari per non finire in prigione. Cioè a Genova finiti. Dice quali? Quelli delle finte fucilazioni, delle torture. E sono quindi? Stati portati, secondo lei la polizia che ti porta su un monte fa una finta fucilazione, è una cosa legale? Assolutamente no. E quindi? La risposta quale deve essere? L'ammazziamo? È stata una guerra, cioè è stato un clima di... Se la polizia doveva arrivare a questi punti, a questa follia di entrambe le parti, perché io non sto né da una parte né dall'altra, dopo così tanti anni che è bruttissimo ripensare a queste cose. Però che la nazione, voi giornalisti, non volete prendere atto dell'orrore che c'è stato sia da una parte che dall'altra. E la fine è caduto il muro di Berlino, le due potenze che spingevano da una parte e dall'altra. Vogliamo riparlarne. Va bene, Roberto, la sua posizione è molto chiara, io non la condivido, ma come vede lei è qua. Campagna, visto che suo fratello era un agente, tra l'altro, della Digos, vuole lei fare una risposta, dare una risposta all'ascoltatore di Genova, poi vado da Luca da Treviso, Campagna. Certo, cioè, ha già risposto lei praticamente. Io... sicuramente. Ma la mia opinione non conta. Sì, no, ma comunque la posso condividere. No? È ovvio che sicuramente da parte delle forze di polizia possono essere successe determinate cose, però ripeto, all'ascoltatore chiedo, quindi cosa succede? Siccome dalla parte della polizia ci sono state torture, devo ammazzare le persone, devo ammazzare i poliziotti, e in questo caso mio fratello, visto che molto probabilmente non ha torturato queste persone, cosa c'entrava? Perché dovevano uccidere mio fratello? Perché Battisti doveva uccidere mio fratello? Perché ci sono passaggi... seguo il filo logico dell'ascoltatore, che però non è ancora in diretta, non vorrei interpretarlo male, ma dice quello era il fatto che ci fossero da una parte e dall'altra violenze, era la giustificazione del fatto che ci fosse una guerra, e in guerra si ammazza. Sì, certo, ma non è una guerra, cioè, sfido chiunque ad andare a cercare che nel periodo degli anni 70, gli anni 90, in Italia ci sia stata una guerra civile piuttosto che una guerra, ci sono stati degli anni di piombo, questo sì, ma non c'è stata assolutamente una guerra. Andrea Trevi, sì, e comunque è una guerra dichiarata soltanto da una parte, ok? Quindi io la vedo in questo modo, la vedo, però ripeto. Come Andrea Casalegno ci dice spesso. Andrea Treviso da Lucca, buongiorno. Salve, come lei io sono completamente in disaccordo con la persona che mi ha preceduto nell'intervento, perché questo è un modo per legittimare in fin dei conti degli assassini. Come non sono assolutamente d'accordo con la decisione dello Stato del Brasile di non dare l'estradizione e quindi di dare praticamente l'immunità a Battisti. E questo non, uno Stato come il Brasile, che poi è molto vicino all'Italia per una serie di questioni, della UE non mi sarei mai aspettato, quindi lo Stato italiano deve reagire in questo caso in modo energico, non con una protesta diplomatica e basta. Dobbiamo arrivare a far sentire le nostre ragioni, anche perché così non si rispetta lo Stato italiano, non si rispetta chi ha sofferto a causa di quelle persone, perché anche dopo 40 anni si soffre ancora. Io fortunatamente non sono mai stato neanche sfiorato da questo, ma i familiari di queste persone che vedono praticamente perdonati, ma non dallo Stato che ha subito, ma da un altro che non c'entra niente col dolore che ha causato quella persona. Questi stati si intromettono, come prima la Francia, adesso c'è il Brasile, Ma io non capisco con quale arroganza fanno queste prendono queste decisioni. Grazie Luca. Lei lì dice arroganza, insomma, il Brasile, Battisti è in carcere in Brasile, il Brasile è uno stato autonomo, ha deciso autonomamente. Questo non vuol dire condividere o meno la decisione, però insomma, più che arroganza è uno stato che ha delle leggi e in base alle proprie leggi ha deciso così. Lei dice le vittime e chi ne porta i segni. Alberto Torregiani, eccoci qua, buongiorno. Come detto, buongiorno. È figlio di Pierluigi, che fu ucciso il 16 febbraio del 1979. Tra l'altro, nello stesso giorno fu ucciso anche il macellaio Lino Sabbadin. L'abbiamo vista, tra l'altro, anche in TV in questi giorni. Ho detto di Maurizio Campagna. Maurizio Campagna, ho chiesto del fratello quale fosse la colpa, tra mille virgolette, quella di essere apparso in video durante l'arresto di alcuni presunti terroristi al momento, e quindi questo essere apparso in video come colui che arrestò fu la colpa che lo condannò a morte. Quella di suo padre, quale fu di colpa, sempre tra quelle mille virgolette? Sì, buongiorno a tutti. Comunque, sì, quello di Andrea Campagna sicuramente è assurda alle quattro compiuti dai PAC. Quello di mio padre, l'unica colpa era quello di essere, a loro dire, un capitalista, un commerciante che sfruttava il proletariato per fare soldi. Lo dimostra il mese prima quell'attentata rapina, perché difese il proprio pane, come io lo definisco, e da questo ovviamente venne poi colpito un mese dopo, perché il loro punto di vista sicuramente era sbagliato, cioè il loro punto di vista era che il proletariato doveva appropriarsi del bene altrui, a loro dire, oltre quello che lo standard del comunismo richiedeva. Ci fu anche un paio di mesi prima, credo, una rapina in un ristorante di Milano e suo padre era lì come cliente e reagì e questo costò appunto il diritto di dare una condanna a morte per questo. Sicuramente questo sì, questo scatenò questa ira da parte dei PAC, e infatti venne colpito mio padre e venne colpito anche Sabatini per la stessa motivazione. Oltretutto quello che vediamo nel disegno è colpirli tutti e due nello stesso giorno, anche a distanza di ore, proprio per cercare di dare anche un segnale, a loro dire un segnale ideologico ai cittadini, cioè quello di non fare a difendersi dall'esproprio proletariato. Rina Gagliardi, secondo lei è sbagliato l'approccio che contestava l'ascoltatore molto pacatamente, a dire da una parte mettere i parenti delle vittime e dall'altra, che voglio dire, uno di fronte al racconto di un parente delle vittime ovviamente che cosa può dire se non, come dice lei, molta compassione, molta sofferenza portano ancora addosso. È sbagliato questo approccio, a dire invece c'era una guerra, insomma, trattiamola da questo approccio, da questo punto di vista? Dico, forse parlare di guerra capisco che può essere fuorviante, però è vero che c'è una differenza, perché io che tendenzialmente mi metto da parte delle vittime, chiunque subisca un torto o addirittura venga ucciso in qualche modo innocente, no? Anche se poi, come diceva Hemingway, nessun uomo è innocente, ma insomma io che mi pongo dalla parte delle vittime mi pongo dalla parte di tutte le vittime, e credo che sia molto difficile mettere insieme, come dire, la propria storia personale con, diciamo, i problemi più generali. Io credo che appunto facendo questa distinzione e anche evitando, se mi consente questa piccola critica, di pensare di tentare di trovare una razionalità nella follia terrorista, non è che si uccidevano dei poliziotti o delle persone e appunto per una razio in qualche modo, per una logica in qualche modo comprensibile, si uccidevano dei simboli, si uccidevano appunto, si disumanizzava e conseguentemente all'ideologia terrorista anche la lotta, diciamo, che forse era politica. A me sembra evidente una cosa, che c'è stata una stagione terribile che l'Italia ha vissuto, che tra l'altro si è ritorta soprattutto contro la gente di sinistra, che per diversi anni non poteva neppure fare una manifestazione senza essere in qualche modo identificata per eccesso, per una qualche vicinanza con questo. Beh, c'è stata una stagione politica, sì. E questa stagione politica, nella quale molti, per molti giovani, diciamo, hanno ceduto a questa idea assurda che si potessero raggiungere gli obiettivi di cambiamento della società attraverso la lotta armata. Bene, quella stagione per fortuna è finita, almeno, però in qualche modo non è finita. Io dico che questo problema, mi pare, è un problema diverso da quello che, diciamo, ha dominato questa trasmissione, cioè il bisogno di giustizia di chi di quella stagione è stato vittima. Allora, io mi lascio... E allora no, mi voglio dire, sì. Io credo che una delle cose, degli errori politici fatti sia stato quello di non, appunto, ottenere, di non adoperarsi attraverso delle leggi, attraverso anche una discussione. In qualche modo ogni stagione deve avere una conclusione, un suggello politico. Ma lei sa che molte, finché questo approccio è inaccettabile, per esempio, per i parenti delle vittime, proprio finché non si scontano le condanne, per esempio. Chiudere una fase storica se non si scontano le condanne è un atteggiamento, è un qualcosa che non è accettabile per molti. Condanne passate in giudicato da tribunali italiani. Voglio salutare, prima di andare al traffico, Clemente Mastella. Buongiorno. Buongiorno. Ministro, ex ministro della giustizia. Mastella, lei quando era ministro della giustizia si è battuto perché Battisti venisse estradato appunto dal Brasile. È la pietra tombale questa sull'estradizione? Cioè, che prova adesso che lei, vabbè, ne è fuori dalla politica in quel ruolo, però insomma. Certamente sì, lei dice mi sono battuto, cioè io ho fatto semplicemente quello che era il mio dovere, cioè a fronte di sentenze italiane che stabilivano, come per ogni altro cittadino, che Battisti aveva ammazzato 4 persone, di cui 2 poliziotti e poi Torreggiani e quell'altra persona, io ho fatto soltanto il mio dovere, cioè quello di richiedere l'estradizione alla Francia prima e successivamente al Brasile. Io ho ricordato di recente che io parlai direttamente con il ministro della giustizia brasiliano e lui convenne con me, ne parlammo a lungo, mi ricordo, durò una mezz'oretta la non banale discussione tra di noi. C'è questo genero che poi ha deciso, questo ministro... Sì, esatto. Noi parlammo anche, lui convenne, cioè nell'idea che la rivoluzione, anche in natura culturale e politica, non avveniva attraverso le morte di questo tipo, ammazzando persone inermi e poliziotti che insomma difendevano lo Stato. Quindi da perché ha cambiato idea? Stabilimmo anche la procedura, tanto è vero che credo sia una delle poche volte in maniera inusuale che, non avendo noi il magistrato di collegamento in Brasile, dovemmo utilizzare, e non mi ricordo se la cifra era di 120.000 euro, poi dopo ridotta a 80.000, con un avvocato, credo di origini italiane, che l'ambasciatore prese per difendere le nostre tesi dell'estradizione presso la Corte di Giustizia. E che è successo secondo lei in questo anno? In quel colloquio lei aveva avuto sentore? Quello che mi è stato detto, peraltro, è lui in persona, perché parrebbe, però evidentemente che insomma gli organismi preposti, diciamo di natura tecnica, giuridica, giurisdizionale e giudiziaria, erano tutti quanti consenzienti all'estradizione. Quello che poi è avvenuto dopo, francamente, non so dirlo, quindi è lui che dovrebbe dare una spiegazione, peraltro una spiegazione anche rispetto a me. Cioè, è vero che oggi sono ex ministro, però ho rappresentato lo Stato italiano, e fino a quando nella funzione istituzionale io parlavo, non la funzione di oggi, cioè io riferisco ai fatti storicizzati in quella circostanza. Senta, Mastella, quindi una forma di scortesia rispetto anche al nostro paese, peraltro anche una forma di scortesia, se vuole, anche rispetto alla non banalità delle provocazioni culturali e politiche che avemmo tra di noi. Le chiedo, Rina Gagliardi ci ha detto, ha sentito forse arrivando insomma in coda all'intervento ultimo di Rina Gagliardi, a dire forse delle leggi per chiudere una fase storica, per chiudere un periodo storico, un approccio di questo tipo andrebbe bene, insomma. Ma tutte, guarda, le fasi hanno un inizio e una fine. Questo voglio dire, sa, bisogna distinguere due aspetti: un conto è chiudere una pagina storica, ma in realtà di fatto è chiusa, insomma, chi teorizzava il doppio Stato ricorderà in quella circostanza, cioè bene o male questa è chiusa, Però lei si metta nei panni, insomma, dei figli, delle vittime, dei parenti, cioè chiudere o non chiudere, insomma, uno paga anche, chiudi ma paghi, cioè puoi essere remissivo, dopodiché sconti in Italia, dopodiché può esserci anche successivamente, ma il fatto di essere all'estero, di giocare, di andare sulla spiaggia di Copacabana, eventualmente, insomma, divertirsi là, ed essere impunito, francamente no, cioè uno può arrivare, dopodiché stabilisce anche che anziché avere 15 anni di galera, ecco, chiudi la vertenza per tutti e ne fai 3 anni, però hai scontato un qualcosa. In questo caso qua invece no, c'è la delegittimazione, peraltro sono venute cose incredibili, delegittimazione anche del rapporto tra Italia e Brasile, cioè nel senso che, insomma, è una pesantezza. Io poco fa in un'altra missione ho detto cose che mi sento di fare qua, utilizzando sì, anche voi, dicendo mi farebbe molto piacere, perché questo ha lasciato sconcertati, diciamo, la stragrande maggioranza degli italiani, che i calciatori che vanno per la maggiore, che sono brasiliani in Italia, facesse un appello alle autorità del loro paese, dicendo questa cosa rende triste anche il rapporto, noi che siamo trattati in questo paese estremamente bene, vogliamo sì, fare qualcosa per riattivare i rapporti, cioè dicendo a Lula intervieni perché è una cosa ingiusta, cioè vorrei che lo facessero. Ce ne sono tanti di calciatori famosi, brasiliani, sono quelli che vanno per la maggiore, cioè farei un appello ai dirigenti politici del loro paese dicendo questa è una cosa ingiusta, in Italia è vissuto ingiustamente, siamo in uno splendido paese in cui siamo trattati egregiamente, facciamo un appello perché, insomma, la pagina non si chiuda così, perché una pagina è veramente triste. Allora, Alberto Torregiani, lei prima il cellulare suo andava un po' e veniva, adesso spero che si senta bene. Io ho detto che lei era presente, insomma, nel momento in cui suo padre fu ucciso. Per questo forse chi l'ha visto in TV lo sa, ormai è una storia risaputa, ne porta i segni, nel senso che ci fu quel conflitto a fuoco, suo padre fu ucciso, un proiettile colpì anche lei, da quel giorno lei è in carrozzina. E lei ha scritto anche un libro, si intitola Ero in guerra ma non lo sapevo. L'ha scritto dopo, tra l'altro, tanti anni, credo dopo 25 anni ne ha avuto la forza. Insomma, chiudere la pagina si può? Chiudere quella pagina storica si può, secondo lei, dal suo punto di vista, che è un punto di vista molto, molto ovviamente anche carico di emozioni, posso immaginare? Ma sicuramente sì, si può fare tutto. Come si vede, si può chiedere l'estradizione, si può anche rifiutare l'estradizione, si può sicuramente anche chiudere gli anni di piombo, anzi secondo me è anche una cosa dovuta, bisogna guardare sempre verso il futuro e fare insegnare ai giovani che bisogna lavorare verso il futuro, non mai guardare solo il passato serve come esperienza, non come metodo di vita. Chiuderlo sicuramente, però bisogna prima di tutto, come diceva prima chi è intervenuto, bisogna però prendersi in mano, e come diceva anche l'onorevole Mastella, la responsabilità principalmente, per cui se questi personaggi non si prendono la responsabilità di ciò che hanno fatto e da questo poi pagare il loro pegno, non si chiede ovviamente di andare certo, a Grera, buttare chiavi o questo o quell'altro, o fare come diceva quello di Genova, riportare agli anni in cui venivano. Ma questo è chiarissimo. Tra l'altro, lei, Torregiani, il libro suo ce l'ha davanti? Come? Sì. Se non le è troppo di peso, ci vuole leggere la dedica che lei ha fatto al libro? Sì, volentieri. Provi. Sicuramente una cosa un po' particolare, però va bene. Intitolata a mio padre. Sono stato al tuo fianco fino all'ultimo respiro e quell'ultimo sguardo mi ha rubato la vita, ma non ho più invasi, non rancore mi travolse. Un giorno lontano, di una calda primavera, mi prendesti per mano, regalandomi nuovi sogni, nuove speranze. Pochi gli attimi che ci unirono, ma bastarono ad insegnarmi il giusto. Poi, in un giorno freddo d'inverno, ti strapparono a me e ai tuoi cari, bruciandoti l'anima con il vento della follia. Ancora solo ripresi il mio cammino. Il tuo ricordo brucia sulla mia pelle, il tuo insegnamento riempie il mio cuore, consapevole di avermi portato ad essere quello che sono. L'amore non dà spazio all'odio. Questo libro è dedicato a te, per sempre tuo figlio. La ringrazio, così come ringrazio ovviamente tutti coloro che sono intervenuti. Viva Voce torna domattina.